America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Newport in Galles al vertice NATO Mario Platero. We are now grappling with all sorts of social and economic challenges that have their roots in a problem not acknowledged and which has contributed to so many of the conflicts around the world in recent times. Il principe Carlo, impeccabile come sempre, beh, non poteva esserci un incontro di capi di Stato e di governo in Galles senza la partecipazione del principe, appunto, del Prince of Wales, principe di Galles, 65 anni, l'eterno erede al trono, pensate, dal 1958, ieri ha accolto i leader per un ricevimento, ha chiacchierato a lungo con Barack Obama. È una delle tante curiosità ai margini di questo vertice storico. Un'altra: Obama è diventato il primo presidente americano a visitare il Galles. Un'altra ancora: nei campi da golf di Celtic Manor, il maniero celtico dove si tiene questo summit, ci sono aerei militari, un carro armato, tende mimetiche con soldati e dimostrazioni delle armi del futuro, incluso un bazooka enorme che pesa 12 kg modificato per l'addestramento. Invece dei proiettili veri, ha un sistema laser legato a un computer che consente di simulare l'attacco a un obiettivo distante fino a 200 metri. Beh, potrebbe sembrare un gioco elettronico, ma posso garantirvi, non è affatto facile da manovrare. Questa mattina, poi appena arrivati, i leader, sempre da Celtic Manor, hanno partecipato in una giornata tiepida di sole, devo dire il tempo è stato sempre molto bello, accogliente, a una dimostrazione aerea. Questi sono i contorni di colore di una due giorni che è stata invece molto seria, dedicata alla definizione di una nuova strategia dell'alleanza per contenere le destabilizzazioni in arrivo da est, dalla Russia, dal sud-est, in Medio Oriente, dall'ISIS, nel nuovo califfato a metà fra Iraq e Siria, e dalla Libia nel Nord Africa, dove la situazione è sempre più caotica. Proprio dalla Libia c'è un pericolo immediato per l'Italia, mi hanno detto questa mattina funzionari americani, per il rischio di flussi migratori in crescita che arrivano nel nostro meridione, per la radicalizzazione del paese, per la minaccia di infiltrazioni terroristiche, un tema in più di cui tenere conto per definire il futuro delle missioni NATO. E nell'ultima sessione che si sta tenendo in questo momento si discute invece della forza del legame transatlantico che, devo dire, per quello che abbiamo visto finora, permane. Le decisioni prese oggi, cominciamo dalle misure per chiarire la Russia, che non è possibile nel 2014, nel post-guerra fredda, nel momento in cui si deve combattere un nemico comune nell'estremismo islamico, quando si deve dare vigore alla ripresa economica, è inaccettabile, dicevo, prendere le armi, varcare i confini di uno Stato sovrano vicino, annettere territori. Le misure decise sono a livello NATO per il coordinamento di operazioni logistiche, l'invio a rotazione di 4.000 soldati nei paesi baltici, ad esempio, a livello bilaterale per l'invio di aiuti militari come i 90 mezzi corazzati dell'Iveco che l'Italia manderà a Kiev. Infine, al di fuori della NATO, Stati Uniti e Europa hanno varato nuove sanzioni economiche contro la Russia. Questo al di là del fatto che l'Ucraina e i ribelli pro-Russia, sotto gli auspici della Russia, abbiano negoziato un cessate il fuoco. La firma non basta, ci hanno detto fonti vicine a Casa Bianca, ci vorranno le verifiche per il ritiro effettivo delle truppe russe dal territorio ucraino, per la liberazione degli ostaggi, per altre misure concrete che dimostrino una svolta effettiva. In altre parole, le pressioni su Mosca resteranno fortissime fino a quando non si sarà appurato che questa volta si fa sul serio per chiudere questo conflitto. Per incoraggiare questi passi concreti, il leader francese Hollande ha detto che non appena si sarà verificata la buona fede russa, le sanzioni o il blocco francese della vendita di due navi a Mosca saranno revocati. Intanto il segretario generale della NATO, Anders Rasmussen, ha mantenuto la linea dura, ha dato il contesto della situazione per conto di tutti gli alleati, usando parole forti contro Mosca. Sentiamolo. Russia's aggression against Ukraine has been a wake up call. La nostra situazione di sicurezza è cambiata, dice Rasmussen, a Oriente la Russia ha attaccato l'Ucraina, ha solo contribuito a peggiorare la situazione, a sud-est la minaccia del terrorismo con le azioni dell'ISIL è gravissima e se ci sarà un invito da parte dell'Iraq, la nostra alleanza potrà intervenire. Ecco dunque l'altro fronte, l'altra sfida, la creazione di una coalizione contro il califfato islamico che ha conquistato territorio fra Siria e Iraq, che ha minacciato e sconfitto in due occasioni il fiero popolo curdo, ha tagliato la gola a due americani, minaccia l'Occidente con ondate di attacchi terroristici grazie a migliaia di cittadini europei con passaporti americani, britannici, francesi, italiani che sono stati arruolati nelle fila di militanti combattenti. Le misure decise qui a Newport su tre fronti diversi per il terrorismo islamico, Stati Uniti e Gran Bretagna cominceranno attacchi aerei congiunti in Iraq e in Siria contro il califfato, aprono a una coalizione. Rasmussen ha detto che se l'Iraq dovesse chiedere un intervento della NATO, la richiesta rientra nelle responsabilità di difesa esterne ai confini e che ci saranno risorse disponibili grazie alla chiusura quest'anno della missione in Afghanistan. Ci sarà un coordinamento con paesi della regione, dalla Giordania all'Egitto alla Turchia. Obama questa mattina per esempio ha incontrato il presidente turco Erdogan proprio per coordinare un'azione comune. Paesi come l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna ma anche la Germania procederanno con azioni dirette a favore dell'Iraq sotto forma di forniture di armi, di addestramento, di forniture di risorse logistiche e di intelligence. Ecco, queste sono molto importanti perché sono destinati a capire la portata e il ruolo dei combattenti stranieri. Il 25 maggio scorso abbiamo avuto un primo avvertimento con l'attentato al museo ebraico di Bruxelles, ci ha detto una fonte vicina al governo americano. E questa fonte ci ha confermato che possono esserci alcune migliaia di terroristi stranieri pronti al rientro per attacchi terroristici. Si tratta insomma di una minaccia gravissima, anche se solo una frazione degli attacchi potenziali andrà in porto, le conseguenze potrebbero essere devastanti e nessuno di noi se lo potrà permettere. Questo è quello che mi ha detto il funzionario. Insomma, la NATO ha reagito, l'appello di ieri mattina di Barack Obama e David Cameron, coesione, schiena dritta davanti ai pericoli in arrivo dai teatri orientali e sudorientali è stato accolto, i 60 partecipanti danno un messaggio unitario, li ascolteremo poi nel pomeriggio nelle conferenze stampa, ma un messaggio unitario, vi dicevo, nel respingere le violazioni dei diritti internazionali, dei diritti umani e oltre alle azioni, questo vertice insomma ha risposto con un messaggio idealistico per il multiculturalismo, per la convivenza pacifica, per la tolleranza, per combattere nazionalismo ed estremismi religiosi che sono, come ha detto Rasmussen, di stampo medievale. Alla retorica ieri si sono aggiunte le azioni di oggi in nome di un ordine che dovrà essere tutelato, ricostituito per il benessere comune e per il recupero di quel dividendo per la pace di cui tutte le nostre economie hanno disperato bisogno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa Casa Bianca che vive sì tempi difficili, ma cerca la reazione. Seguiteci su america24.com e su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Finisce oggi una riunione storica della NATO. Il momento, come abbiamo visto, è difficile, c'è una forte unità di intenti in nome del multiculturalismo e della convivenza. Dunque, vi propongo una nota di ottimismo per il domani, tratta dal film del 1999 Anni, la splendida interpretazione di Alicia Morton di Tomorrow. Domani il sole sorgerà di nuovo. With a day that's gray and lonely, I just stick up my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow. So you gotta hang on till tomorrow. Come with me. Da Newport al vertice NATO è tutto, Mario Platero vi saluta, vi augura un bellissimo fine settimana e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!